Roma Trastevere, 28 gennaio 1970. Care Eleuterio, la casa che mi vide adolescente, nubile e felice, oggi mi vede adulta, sposata e triste. La nostra lite di ieri mi ha scombussolata quasi quanto una chiacchierata di Don Lulio in video. Mentre ti scrivo, il gatto di casa dorme acciambellato sul cuscino del divano. E io penso che il cuscino, in fondo, è un materasso settimino. E penso anche che sei un deficiente, Eleuterio, perché non si procura una lite maiuscola solo per una sveglia che suona, sempre tua. Roma Parioli, 29 gennaio 1970. Cara sempre mia, provo un immenso senso di pena per la casa che oggi ti vede, adulta, sposata e triste. Perché ti vede? Pensa la fortuna del vicolo cieco sottostante. Sono un deficiente, hai ragione. Primo, perché quando si trattò di sposare dissi sì, anziché dire sì. Secondo, perché non si litiga per una sveglia che prende a suonare, anche se prende a suonare per via dell'impatto con la mia dignitosa nuca. Non si litiga per questo, si uccide. Ciao. Ho scritto: se tua madre da ragazza, anziché tuo padre, avesse incontrato il grande Barnum, avrebbe fatto la felicità di due uomini. Quella di Barnum, perché la donna baffuta è sempre un affare. E quella di tuo padre, perché oggi non sarebbe tuo padre, Eleuterio. Roma Trastevere, 30 gennaio 1970. Care Eleuterio, miciastro, ti prego notare la forma dispregiativa con l'astro di dietro, come villaggio presentatorastro. Non so se mi spiego, ma forse può darsi. Quando bambina, sorridendo, strappa il primo volume dell'elenco telefonico, vuol dire che è irritata. E quando lo strappa senza sorridere, dicendo delinquente, assassino, degenerato, imbecille, vuol dire che è arrabbiatissima con te. E stamattina ha strappato l'elenco nella seconda maniera. Ho comprato un paio di ciglia di visone e me le sono applicate per reazione alla malinconia. E io penso che le ciglia di visone sono soltanto il tupè delle palpebre. E scusami se la sveglia ha suonato per l'impatto con la tua dignitosa nuca, ma il tuo volitivo naso al momento del lancio da parte mia si trovava dalla parte della nuca, mentre io avrei preferito che la nuca si trovasse dalla parte del naso. Chiaro? Sempre tua. Roma Parioli, 31 gennaio 1970. Inestinguibile sempre mia, provo un senso di fastidio non vedendoti girare per casa. E anche se quando ti vedo il senso di fastidio è doppio rispetto a quello che provo non vedendoti, preferisco vederti. Forse sono un autolesionista, o forse, chissà, è solo guardando te che riesco a stabilire quanto il mondo sia bello, anche nei suoi lati peggiori. Torna. Torna anche perché grappoli di muffa bianca hanno invaso le pareti della stanza da bagno. Da dove viene tutta questa umidità? Ho scritto. La portinaia dice non trattarsi di muffa, ma di schiuma da barba sparsa. Ma perché tua madre si viene a fare la barba nel mio bagno? Eleuterio. Roma Parioli, 1 febbraio 1970. Care Eleuterio, micione, sono di nuovo nella casa di tutti e due noi. Sì, Eleuterio, di tutti e due, perché se è vero che la paghi tu, è anche vero che io ne sono la padrona. Ho trovato i pappagallini perplessi di fronte al pezzetto di trippa che gli hai appeso nella gabbia e il gatto ferito nell'orgoglio davanti alla scodella di miglio che non lo riguarda minimamente. Comunque, Sono tornati e ho messo in fresco una bella bottiglia di champagne. E io penso che lo champagne in fondo è solo una gasosa che ha avuto una raccomandazione per la vedova Clicquot. E penso anche che quando rientrerai non farò recriminazioni, anche se ricordo perfettamente tutto della nostra ultima lite. Eravamo appena andati a letto e... Buonanotte, Eleuterio. Buonanotte. È meglio che io dorma subito, perché dato che tu ti devi alzare presto, non vorrei dormire poco. Il giorno che riuscirai a fare un discorso comprensibile, appena appena coerente, io per festeggiare scriverò una lettera di consenso e di stima alla casalinga Gisella Pagano. Ma che dici? Dico che se non dormo subito, Eleuterio, poiché tu la mattina alzandoti prima di me, che mi alzo sempre dopo di te, mi svegli, mi fai perdere sonno. Per cui buonanotte. Buonanotte. Ma voi guardate come deve concludere la giornata un poveraccio. Ma che ho fatto di male? Vabbè, buonanotte. Buonanotte. E per favore, se ti viene la tosse mentre dormi, svegliati e vai a tossire di là, se no svegli me, che non ho la tosse. Senti, amore mio bello, io ho qualche istinto sanguinario che mi sforzo di reprimere, non tanto per la parte che riguarda te, quanto per quella che riguarda me. Ma tu non mi devi provocare, devi stare zitta, chiaro? Figurati, guarda, io dormo, mi giro anche dall'altra parte. Brava! E quando ti giri, per favore, alza le coperte. Ogni volta che ti giri, ti arrotoli nelle coperte, io resto scoperto e fa freddo. Eleuterio, sei seccante e egoista. Se alzo le coperte per girarmi di lato, prendo freddo. E allora, per non prendere freddo, non alzo le coperte. E se non alzi le coperte, ti ci avvolgi dentro come un salame, mi scopri. E io resto scoperto e infreddolito come un cretino. Mi piace, Eleuterio, perché resti sempre coerente, anche scoperto. Tu prova un'altra volta a girarti senza alzare le coperte. Io ti dimostro che cosa so fare quando mi arrabbio con una semplice calza di nylon. Se vuoi alludere allo strangolamento, Eleuterio, fai pure. Ma ti avverto che in caso di pericolo io telefono al 113. Me l'ha consigliato mammina proprio ieri. Ieri? Sì. Ah, ma allora è tornata. Non l'avevano messa sulle rive dell'Arno come rinforzo agli argini. Eleuterio, lascia stare mia madre, poverina, questi giorni oltretutto si sente anche poco bene. Poco male? Poco bene. Se si sentisse poco male starebbe quasi bene. Invece si sente poco bene, cioè quasi male. Mi dispiace per il quasi. E ti sei rigirato un'altra volta senza stare le coperte. Guardami, sono in pigiama. E come vorresti essere, smoking? No! Vorrei essere in divisa da ergastolano, dopo averti ampiamente strozzata. Dormi! Dormi e stai ferma! E non mi toccare con il piede gelato! Eleuterio, sei insopportabile! Non mi posso girare, non posso muovere un piede! Sei un cafone! In fondo questo letto, essendo matrimoniale, è per tutti e due. Quindi, se ti do fastidio, vattene! Me ne vado! Se non ti metti a dormire, immobile, come una mummia, io mi alzo, vado a cercare le scarpe da pallone di quando giocavo e ti faccio vedere che cosa si fa con una moglie cretina immaginando per 5 minuti che sia un pallone. Eleuterio, chiedi scusa, se non mi alzo e torno da mia madre. Impossibile, a quest'ora lo zoo è chiuso. Eleuterio, smettila, lascia stare mia madre, povera donna. Povera donna, se mi dici che tuo padre è un povero uomo, sono d'accordissimo. Ma tua madre, povera donna, no, dissento, e non per l'aggettivo povera, ma per il sostantivo donna. Lascia stare mia madre, meriteresti che mi alzassi e uscissi dopo averti schiaffeggiato. Se mi garantisci che dopo avermi schiaffeggiato te ne andrai, schiaffeggiami. Ecco, avanti, schiaffeggiami, schiaffeggiami e vattene. Sono da mia madre, sei un brutto, un sadico, un... Non fare vento con le coperte, oca. Basta, Eleuterio, meriteresti che ti dessi una scarpa in testa, ma io sono una signora e perciò tieni. Ehi, la sveglia. Ma hai tirato la sveglia? Sì. Adesso ti faccio vedere. No, aiuto, fermo. Ti prego, aiutare. Camilla! Ricordo tutto perfettamente, Eleuterio. Ma quando rientrerai non farò storie. Ti dirò solo un buonasera sorridente e amoroso. Ecco, così. Ciao. Buonasera, Eleuterio. Rimettendo in ordine un vecchio baule, ho ritrovato il sacco a pelo che usavi sotto le armi. Ah, sì? Sì, Eleuterio. Così tu stasera, quando vieni a letto, ti infili nel tuo bel sacco a pelo e io posso rigirarmi, alzare le coperte quanto voglio. Sei contento, Eleuterio?